Mezzogiorno si trascina tra l'odore di pesce fritto e strade, ma ridevano incollate da una vita sul volante di un tassì, magro come un chiodo, gli occhialetti di metallo, scarpe gialle e blu, naso a nodo di cravatta, i polsi di bambù. Quando venne al mondo non ci fu nessuno che lo stesse ad aspettare. È cresciuto in fretta con due occhi svelti senza una precisa età. Cicatrici sulle spalle dove le ali non ricresceranno più. L'anima profonda come i fiumi di qua giù, di qua giù. E lo vedi, non ride, non parla di sé, non guarda, non chiede, non sa se è nato per strada in mezzo al caffè o al centro del Maracanã. Traffico, disperazione, attesa, rabbia, nostalgia, rassegnazione, da portare a spasso gratis tutti i santi giorni per le vie di Rio. Ma il tassametro ora dorme, l'alba gli regala una canzone che fa dei suoi capelli crespi neve. E lui è un re, lui è un re. E lo vedi ballare lontano da qui, sul filo dei tetti più su. E c'è un'autostrada per il suo tassì nel sole. Sole nel sale.